problemi non me ne sono mai creato, veramente. Quindi se tu le dai fiducia, lei ti dà fiducia, stai pur tranquillo che tutto funziona bene. Ocla, noi sappiamo dove la stiamo mandando e con chi soprattutto la stiamo mandando, queste uscite così che fa, quindi escono con altre due o tre ragazzine, conosciamo bene i genitori, sono di buona famiglia, quindi per quello a occhi chiusi, capito Cla? Però l'età di tua figlia è diversa dalla mia, nel senso che adesso non è come prima e tu lo sai benissimo. Ma infatti Ilaria ne ha 35 a novembre, quindi non è buccia di gioco. Il problema è che quando era piccolina, stiamo parlando di tanti tanti anni fa, forse era diverso, hai ragione, lo ti ripeto, io gli ho sempre dato massima fiducia, lei mi ha sempre contraccambiato, non mi ha mai creato problemi, perché è importante, vedi come hai detto tu, sapere con chi vai, dove sei, chi frequenti, perché ci dice che va con la zoppa, impara a zoppicare, se uno è zoppo, zoppicheggi il burro due, invece se hai una linea tua, segui la linea tua, degli altri non te ne fotte niente, e allora i risultati arrivano sempre. Sì, sì, sono d'accordo con te, però no, ma che ti ripeto, Cla, il problema non siamo noi, perché poi alla fine noi cerchiamo di indirizzarle sempre in una strada migliore in assoluto, il problema sono gli altri, capito? Sono tempi diversi, da mia figlia a tua figlia, adesso c'è troppa delinquenza, un ragazzino di 15 anni, per farti comprendere, segni la te pure, capito? O a me. Ma soprattutto sono tutti armati, chi rimane oramai non si difende più nessuno, capito? Oramai coltelli, cacciaviti in tasca, e a cabiciola burba, non qua, insomma, nelle zone nostre, ma comunque se vai in altre zone funziona così. E qui sono tutti esaltati. Troppi film gli hanno fatto vedere, capito? Troppi film. Invece, dopo Carosello, mamma diceva a nanna, ma a nanna, Carosello è finito, aiuto, tutta a cucarvi. È proprio così, Ecla. Vai in Aliburgo, non ti preoccupare, gira un po' con tutto. Adesso hai visto quel signore di Alghero, cazzo, non ha dato precedenza a questo ragazzo di 40 anni con lo scooter, si è fermato, un pugno a faccia, è caduto, ha sbattuto la testa al marciapiede in coma. Chi dato il returbino, cazzo, di chi mi invia, quella che scende dal Duomo, via la Marmora, con il turbino, cazzo, che ti ha raccolto un colpo di guida, una specie di ma come ti chiama, guida katana, la katana, e l'ha messo il gambo in due. Sì, dottor Vicero, sono tutti matti, sono tutti matti, però poi trovi quello che però non ti dà il tempo e fai la fine del buco, capito? Perché a me tutto mi può toccare pure un buco, però non devi toccare il video, certo, faccio il buco in capo, la bestura io. Sì, ma siamo tutti così, Claudia. Chi è che non ho... Io per la famiglia io mi farei la galera, a me non me ne frega niente. Ma chi è che non difende o la moglie o la figlia? Ma stai scherzando. E che ti ripeto, Claudio, nei giorni d'oggi c'è troppa delinquenza, capito? Troppa, troppa, troppa. Prima quando eravamo più ragazzi noi, sì, la delinquenza c'era lo stesso, però non a livelli di oggi. Oggi sono armati purtroppo, oggi sono tutti con bocce di imbusciata. Infatti quando vai a affrontare qualcuno devi essere pronto a avere qualcosa di tuo per difenderti, perché sennò ti bugnini, capito? Hai fatto la Torre, che te lo conoscevo anche perché una vita quell'uomo, con l'ispettore di polizia, che è andato a difendere la figlia di vicino a un altro, dal genero, e ha ammazzato a Edo, la moglie e la migliore, mi pare che è ancora in coma. No, Cla, allora la moglie è morta, e lui vabbè è morto subito, l'ha ammazzato lì, diciamo che la figlia si è salvata, è fuori dal coma, è corsia, però adesso deve subire tanti interventi, dei plastici e cose del genere, no? L'importante è che Roman Cueta si sia salvata, ma perché questa ragazza c'ha due bambini piccoli di un anno, due gemelli, almeno la mamma. non so, però vedi che ha distrutto una famiglia. Il padre è andato a soccorrere la figlia e è passato due drubrimo, a voi la moglie e a voi è già. Non lo sapevo, che, perché lui è molto amico mio cognato, un cognato l'ha lasciato in vigile proprio, quindi gli faceva servizio. E quindi poi la Sassari anche, perciò una bravissima persona, lo conoscevo, bisogna stare attenti. Purtroppo il mondo è fatto anche di questa gente. KK, avanti Natali. Ma non ce l'ha nessuno. Altri tempi erano. Ilaria ha sempre dimostrato di avere la testa sulle spalle. Ehi Natali, quello che gli ho detto io. L'età di mia figlia è diverso dall'età di sua figlia, prima ti ripeto, sì, delinquenza ce n'era, però non a questi livelli, oggi siamo una cosa fuori dal normale. Infatti, tutto è mabbi, grazie mai. Ma devi stare attento pure in macchina, le precedenze, i gol. Cazzo, vedi cosa ti fanno? Cazzo ti chiudi una suscia ed ammazzali. Bravo, sto settimana. Se tiriamo una suscia, vedi no. È un casino. Tu preferi? Non vado in un carbone, va, Massimiliano. È sempre la solita storia. Con chi lo possono fare lo fanno. Sì, vabbè, non chi lo possono fare, Cla. Adesso tu prendi questo ragazzo di 40 anni, un pugno a faccia di somo, un gatto di 60, quello lì giustamente è caduto in terra, ha sbattuto la testa, è entrato in coma, e adesso quello lì lo paga per gonfio. Niente, quello che è successo a Predanieta, dove era la... a quel bar 188, la stessa cosa, ha avuto un pugno e... è nuda, c'è giudice, ne è pigiata dalla casa giudice, è morto, poi vabbè, è risultato poco, ma... Lo so. Lì ha attaccato a casa di Luca, capitano. Sì, io lo so. So chi è perfettamente. Ha due denunzi, Tu vai strato, tutto convinto. Sì, ma è morto l'altro, bello, no, per la giusta. E sicuramente ha rotto le balle qualche duro, qua. Se tu vai nei bar cotto e non rompi le scatole a nessuno, nessuno ti cerca, però se tu vai a rompere le scatole ti cercano, no? Si conferma, è così, lo so, però non è che perché tu sei butta fuori, il gatto devi cubire agli enti, lo accompagni fuori, con gentilezza, con tranquillità, poi il gatto... Se c'è qualcosa che non va, allora è diverso, ma alle partite subito, capito? Ehi, bisogna vedere tu cosa ha fatto, qua. Ehi, boh, ma stavo raccontando a mio genero che lì lui stamattina va a prendere il caffè prima di andare al lavoro, al 188, dice che era... stava rompendo le scatole, vabbè, ma... da rompere le scatole, ammazzano la bassona, vieni voi, Ciao, Gappa! Mi è apparsa questa Smart 4-2 del, aspetta un attimino, 70.000 km, 5.500 leggermente trattabile, cazzo nuova nuova questa macchina. E che anno è? No, non me lo dice. Non te lo dice, allora, se non te lo dice, pazienza. Va bene la radio? Yes. Sempre la solita, vabbè, sto andando al 140. Questa per fare questione più rilassante. Oh ragazzi, scusate, però la cosa è un po' più complessa del previsto, dai, vi devo lasciare, dai. Ci sentiamo più presto, dai, prossimamente. Ok ragazzi, dai, buona serata e buona continuazione di... e buon proseguo di questo, dai. Ciao, già, ci sentiamo. Date da fare. Ciao già, buon questione anche a te, dai, alle prossime. Vai Natali. Ciao Rubrofet, ci sentiamo. Io sto mangiando e ascoltando. Io che dicevo a Bizzati, siamo cambiati. Ascolta, Cla. Dov'è Predanieta, zona industriale, strada 23? La strada 23, la strada... strada 23, ma lo sai che non mi ricordo se si entra dalla centrale del latte a destra o a sinistra per dove c'è la piazzetta, mi pare si entri da lì. Ma lo sai quale sto pensando che sia la strada 23? Quella che c'è di fronte al 188, lì giù c'è una concessionaria di macchine, è vero? Lì c'era l'auto deluxe, sì, dove c'è l'officina di Walter, per capirci, cioè, dove c'è l'osa, sì, quella è la 23. Qua c'è una bella Smart, ma proprio bella bella, Smart Ford Tux, 1062 kW Coupé Passion, 4200 euro, garanzia 12, 24, 36 mesi, quello allora si accettano pagamenti in Sardex, con acquisto sicuro e bimbomba. Milanese Daniele. Sì, Daniele, sì. È lì, nel piazzale dove c'è l'osa, sì, però a me quello lì me la può dare anche a 2000 euro, ma non comprerei mai niente, sono macchine che vanno a comprare fuori, ed è un bel fruttivecchio. Ah, ok, no, perché sto guardando io un'altra cosa, capito, poi mi stanno, ma pagano questa roba qua, io sto guardando dalle roulotte. Il roulotte scende al portatore, c'è la trappasso, ve ne canto di voi. Trappasso gli assi di deve. Perché? Guarda che onestissimo, stai scherzando. Sono troppo garic là, la sapete. Allora, io l'ho prenotata per 13, 14, 15 e 16 agosto. Ok, 4 giorni, 100 euro al giorno, completa di tutto. Ma che cosa? La roulotte o il camper? Il camper, c'è la roulotte grazie ai decenni, ancora la roulotte c'è decenni. Io sono decenni proprio la roulotte, sì, a me il camper non piace. Perché io non faccio camperista, cioè nel senso che io non è che vado col camper e giro. A me mi piace la roulotte. Mi pago la mia piazzuola, mi metto dentro un campeggio e ho la macchina per spostarmi. Con un camper ti devi comprare un chilo di bani per impigliare un camper. O se no devi avere uno scooter, una bicicletta appresso. Devi avere un negozio vicino pure. Se no, cosa fai? Ogni volta abbiamo un buon moto un camper e ti sposti. A me non piace né il camper e né la roulotte. Questa è una cosa per uscire a Ferragosto, capite? 13, 14, 15 e 16, da restituire il 17, 100 euro al giorno. È buona la cifra, da, va benissimo. Va bene proprio. 100 euro anche poco, sta facendo un buon prezzo. No, io ce l'avevo, ma l'ho venduta, guarda, 2 anni fa. L'ho venduta a Santa Giusta, la roulotte. L'ho venduta perché era troppo grande, non me ne facevo nulla. Era 7,60 m. Cosa me ne facevo una roulotte così grande? No, ma per voi, per 3 persone, va bene piccola. Va bene piccola, capito? Meno problemi, meno spazio, dai, va bene. Ma questo è un 6 pozzi addirittura, bello, nuovo, non è roba nuovo. Nuovo te lo danno a noleggio. Ma l'ho detto Eugenio, di chiedere, l'ho chiesto, e si può fare. Infatti abbiamo già fatto tutto. KK, va bene. Ma vabbè, io ho il gancio nella macchina, quindi ho il gancio traio. Quindi se la trovo, non adesso però, ma la sto cercando, vediamo un po' se riesco a trovare qualche occasione. E ce n'era una, sì, quello lì mi c'è agganci, quello lì c'è agganci, mi ricordo che hai visto la macchina, il cavaniere, chi se va agganci con gli zingari. Ma io non ne voglio rotti di zingari. No, ma sto dicendo, conosce un bel di gente che c'ha roulotte, capito? Quindi se magari gli dici, quando ti serve, dici, se ti lascio il mio numero, se ti capita qualche occasione di qualche roulotte a prezzo buono, mi chiami, già ti chiamo. No, Daniela si è sentita concordio con Roberto, qua. Già mi è capito chi. Ehi, c'ero anche l'altro giorno al telefono. Sono in contatto con lui, già lo sai, sto cercando una macchinetta io, quindi. Proprio con lui. Ci hanno detto di chiamarlo proprio in questa settimana. Sì, no, io ho preso caffè l'altro giorno. Ho preso preso il caffè l'altro giorno, ho detto, mi dammi questa che c'ho un po' di richieste della macchina, c'ho io, ci trovo una tassetta, ho detto, mamma, così ci ti baghi, me la baghi, ti darò qui, ho detto, ho speso, cosa, ti darò con 1500 euro, tu te la vendi a 2005, e beh, io, ci ho speso 2000 euro per mettere a posto con la macchina, fatta nuova nuova, ce la vedi, completamente tutta verniciata. E voi mi sto aspettando che appena ci libera Mario, perché è incasinato col lavoro, la prende lui, mi fa cambiare la zampa del motore, che balla un pochino, i gommini sono consumati oramai, e poi non ce la fare altro, boh, finito. Cappa cappa, no, claro, io quella bianca che avevo l'ho fatta fuori, però... Gli avevo fatto, prima di darla, un annetto prima gli avevo rifatto tutto l'avantreno nuovo. Siccome quelle sono macchine che fratano avantreno, ammortizzatori, gomme, l'avanti a non finire. Quindi ho detto, oh, non ne spendo più soldi. L'ho data a lui e io me ne ho preso un altro, un po' più recente, meno chilometri, l'hai vista, no? Quindi... è molto molto più recente qua. Sì, l'hai data a Roberto quella. Cosa? A Roberto l'hai data quella bianca. Sì, sì, l'ho data a lui. Sì, io lo so già. L'avevo vista, poi me l'hai detto anche tu. Sì, sì, sì. No, io anche a me vorrei fare così. Quella per una piccola, no, a me ne serve due. Ho detto, se ti capita una macchinetta buona, siccome ci conosciamo tanti anni, no, non mi ha mai deluso, se la trovi mi chiami, sul della mano te la pago, passaggio me ne vado in macchina, no, non c'è nessun problema, però non ne stanno entrando macchine piccoline, capite, ed è fissato un cazzo di macchine mani. No, claro, le macchine piccole già ci sono. Perché io vado a un po' di carnaggi, aspetta un attimo che sta squillando il telefono. Ehi, ma carraggi va, mamma mia. Oh, Cla, scusa, io devo allontanarmi dalla radio, no? Mi ha chiamato Daniela, vuoi scendere giù, devo andare a fare un documento. Ehi, vai, io mi stacco anch'io, dai, vi saluto ragazzi, baci, abbracci a tutti, a più tardi se coincide, ciao. Ciao Claudio, ciao Massimiliano, se stai andando. Io stavo mangiando qua e ho finito poco fa. Piccola, tirata lì, dopo domani mi devi pagare il caffè a me. Vediamo. Già ti chiamo quando ci vediamo a pagarti il caffè. Sto scherzando. Che sono sempre incasinato, se no sarei sceso a prendere il caffè la mattina, ma c'è dopo la punta di casino, ragazzi. Troppo lontano a scendere in moto, io arrivo sino a via Carlo Felice, lì sotto Antonello, mi prendo il caffè, due chiacchiere con gli amici, una sigaretta e me ne do a casa, capito? Tutto qua, dai. Va bene, Tatalì, già ci sentiamo, dai, non ti preoccupare, dai, sereno, tranquillo. Vado che devo preparare la cena, sono già le 8:10. Ciao ragazzi. Ciao Claudio, ciao.